Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. È vero che c'è sempre una donna che aspetta da dove finisce il binario. È altrettanto vero che questa donna potrebbe essere tutto il contrario di tutto. Mai nella vita vorrei che fosse la donna perfetta, perché non esiste la donna perfetta. Come non esiste l'uomo perfetto, la perfettudine o la perfezione è semplicemente un punto di desiderio. Mai uno vorrebbe trovare subito la perfezione perché non avrebbe nulla da scoprire, non avrebbe nulla su cui inveire, non avrebbe questa parte tragica, struggente, dolorosa in ogni rapporto che ci fa fare i conti continuamente con le imperfezioni dolorose delle persone a cui vogliamo bene, con le cui ci relazioniamo. E invece, di fronte a me, c'era la donna perfetta. La sua perfezione era totale, perfetta nel vestirsi, perfetta nello star seduto, perfetta nell'essere bella senza essere appariscente, nell'essere appariscente nella sua perfezione. Era perfetta perché non emanava nessun odore, ma allo stesso tempo aveva un meraviglioso profumo. Era perfetta perché era seduta in maniera compostissima, allo stesso tempo sembrava qualcosa di lubrico nella sua eccezionale perfezione, nel suo nitore esistenziale. E io naturalmente ho voluto toccare con mano ciò che era intoccabile. Tu avevi già programmato tutto questo da quando eri bambina. Avrò due figli, mi sposerò giovane, così a 30 anni potrò entrare nel mondo del lavoro tranquilla, con i figli già fatti non avrò più problemi. Ma no, nessun programma, anzi prima di conoscere mio marito ero abbastanza scoraggiata sul panorama, cioè vabbè, vediamo, vado avanti con la mia vita, forse qualcuno incontrerò. Anzi, era un periodo in cui non volevo proprio incontrare nessuno. Pensavo che mi sarei sposata, ho l'esempio di un matrimonio molto molto felice, che è quello dei miei genitori, in mezzo a un mondo in cui invece le coppie si lasciano, scoppiano anche dopo tantissimi anni. E com'è andata con tuo marito? Come l'hai conosciuto? Mio marito l'ho conosciuto grazie a un amico che una sera gioca a rugby, questo mio amico. E anche tuo marito gioca a rugby? Sì, però non è un rugbista classico. Cioè? Lui fa il mediano, quindi è piccoletto. Piccoletto. È piccoletto. Un amico mi dice: dai, stasera unisciti a noi, siamo a casa di un nostro amico a cena, di un nostro compagno di squadra, vieni così conosci un po' di gente nuova. C'era tutto programmato, questo cercava moglie. Io mi ritrovo da sola in mezzo a 10-12 rugbisti, quindi sono entrata una ragazza praticamente in questa casa. E com'è, t'hanno giocato ai dadi, chi ha vinto, come hanno successo? Scelto io. Hai scelto te? Ho scelto io. E perché hai scelto il più piccolo? Già che c'eri, potevi prendere il più bello. Era anche il più bello. Era anche più bello? Quindi ti piacciono gli uomini normali, ecco. Ma lui, sì, è normale e eccezionale allo stesso tempo. E quindi com'è andato? Subito gli hai detto: ti sposerò, avremo due figli. Me l'ha detto lui in realtà. Subito te l'ha detto. Dopo un po' di giorni mi ha detto: io fra qualche anno mi vedo sposato, magari con un figlio o anche due. E io gli ho detto: vabbè, vediamo come va, perché no? Cioè, due mostri vi siete incontrati subito, figurati. È stato una specie di boh, no, posso no, dire colpo di fulmine, che è una banalità estrema. Però sì, ci siamo visti quella sera. L'incastro perfetto. E dai, da lì abbiamo cominciato a vederci tutti i giorni per mesi. Diciamo, cominciato. Sì, ma intanto già guardavate la lista dell'IKEA, dei mobili, della casa, queste cose qua. No, lui viveva da solo, aveva una casa già abbastanza avviata. Quella casa dove poi sono andata quella sera è la casa dove vivo oggi. Quindi il primo incontro è stato quello dove poi mi sono ritrovata a vivere da moglie. Ci fu l'intima d'azione immediatamente? No. Vabbè, chiaro, sennò non era neppurabile. Poi vi siete fidanzati, quella sera ti ha portato a casa. Quella sera sono andata a casa sua, ma non ci ho parlato per quasi tutta la sera. Cioè tu l'hai conosciuto un uomo e subito la prima sera vai a casa di quest'uomo da sola? A casa sua c'erano 12 altri uomini. L'incontro, poi gli altri sono andati via uno dopo l'altro. No, poi ci siamo tutti spostati in un locale a bere qualcosa, in un pub. Quasi tutti uomini, devo dire. Però ero con questo mio amico che mi scarrozzava in giro. Avrà detto, c'è una libera, vediamo un po' chi se la prende. L'amico poi ho scoperto non fosse molto interessato al genere femminile, quindi andava bene così. Quindi lui bazzicava questa sorta di harem di giocatori di rugby, ti ha portato a te per distribuirsi l'onere di doverli intrattenere. Chissà com'è andata. E anche... Quindi lui aveva già scartato tuo marito come eventuale suo fidanzato. Ma credo che all'epoca non ci fosse nemmeno un interesse chiaro, non lo so. Adesso ha deciso però. Sì. Cioè vi siete sistemati tutti e due, anche lui con un rugbista? Io non lo so, perché con lui ho perso i contatti. Lui è stato l'artefice di tutto, invece col tempo, la vita, diciamo, ci si perde un po' di vista. Comunque l'uomo a cui devi la tua felicità, te ne rendi conto? Sì, ci pensiamo, però abbiamo lavorato tanto pure noi, cioè non è stato un percorso così lineare, adesso te lo sto raccontando. No, raccontami il percorso del matrimonio, perché tu, mi sembra una cosa, vi siete visti tutti i giorni in maniera quasi ossessiva e avete deciso che vi sposavate. C'è stato un periodo di allontanamento prima, dopo qualche mese. Cioè tu l'hai mollato? No, lui ha mollato me. Ha preso un po' d'ossigeno, è chiaro. Sì, ha preso fiato. Si è ossigenato e poi ha deciso che tu eri la donna della sua vita. Sì, penso che sia andata così. E come ha detto, adesso ti porterò sull'altare? No, allora ci siamo rincontrati dopo una telefonata. Lui ha detto, vabbè, ti raggiungo dove sei. Era estate, stavamo alla Sapienza, un concerto. Lui è arrivato lì. Certo, mica potete vedervi voi a un rave party, chiaro. Era un concerto abbastanza movimentato, diciamo. Lui è arrivato e mi ha detto, vabbè, dai, quest'estate partiamo insieme. E lui ha detto, vabbè, ma in che senso partiamo insieme? E mi ha detto, perché stiamo insieme, sei la mia ragazza. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Eravate lasciati. Ci eravamo lasciati. Avevate detto ti lascio pure così. Sì. Un periodo di riflessione. Lui mi aveva detto non, questa cosa sta andando troppo veloce, non me la sento, non mi va bene. E c'era un'altra, chiaro, doveva finire un'altra storia. Chissà, ha sicuramente un passato movimentato. Sì. Sono convinta. Ha avuto un'altra donna oltre te? Parecchie, quante? Tre? Beh, ha avuto delle storie più lunghe, delle avventure. Tu gli hai fatto confessare tutto, mettere tutto in un documento, tieni un file segreto dove poi domani ricattarlo. No, qualcosa mi ha raccontato, poi non è che bisogna sapere tutto. Mi ha raccontato delle sue storie, quelle più importanti, mi ha raccontato di qualche avventura. Ogni tanto si incontra qualcuno per strada, dice, sai, con quella un po' ci sono uscito un periodo, quell'altra così. E tu le tue storielle gliele hai raccontate? Sì, le ho raccontate. Quante il mio passato sono? Lo conosce. Poche, dai. Qualcuna l'ho avuta. Vabbè, una o due saranno. Qualcuna di più. Due e mezzo, dai. Ha avuto i grandi amori. Quindi qualcuno c'è all'asilo. Stato. No. Il primo innamoramento, quello proprio da star male, quello c'è stato. Quinta elementare. No, quello avevo 15 anni. A 15 anni. Vabbè, tu la consideri una storia quella. Ci siamo frequentati per molti mesi e quando è finita io sono stata malissimo. Vabbè, tenera. Dai, parlami del matrimonio. Lui come ha detto, andiamo a fare il corso prematrimoniale? No, perché non siamo sposati in chiesa, quindi nessun corso prematrimoniale. Vabbè, normale, vabbè, banale. Una sera mi ha detto, dai, mi vieni a trovare a casa. Io non avevo voglia di andarlo a trovare perché ero molto stanca, o studiavo, palestra, cose. E lui mi ha detto, dai, ma vieni a trovarmi, ci vediamo un film insieme. Arrivo là da lui e trovo una bottiglia di champagne sul tavolo e gli dico, ma che sei impazzito? Che è sta cosa? Ma sai, il lavoro sta ingranando bene, volevo festeggiare con te. che festeggia, lui aveva appena cambiato lavoro, quindi era contento di questa cosa. Dico, vabbè, ogni tanto li fa questi gesti, molto spontaneo, molto, ama festeggiare le occasioni. Quindi, vabbè, ok. E mi dà un pacchetto. Io vedo questo pacchetto e ci trovo dentro un collarino per cani e un giochino. Allora, noi vuole fare un gioco sadomaso? Sembra, ma non è. Mettere il collare. Siamo entrambi grandissimi amanti dei cani e io da quando lui era andato a vivere da solo gli dicevo, senti, ma prendi un cane, dai, prendi un consiglio cane. Terribile, cioè, e uccidere la sua vita. E cioè, lui mi diceva, no, non posso. C'ha ragione. Avremo un cane quando vivremo insieme. Invece due figli, vi siete fatti. Abbiamo anche il cane. Anche il cane. Il cane è la prima cosa che è arrivata. Quindi lui mi dà questo pacchetto e dico, che cos'è? E lui mi dice, avremo un cane. E con la paura che io mi mettessi a girare per casa a cercare il cane e quindi ci rimanessi male, a quel punto ho dovuto tirar fuori l'anello. E loro teneva nascosto? L'anello, non lo so, in tasca forse, aveva una scatolina. E ti sei inginocchiato e ti ha dato? No, non si è inginocchiato. Vabbè, eravamo seduti sul divano. No, non è da dire. Ti ha messo l'anello? Tu l'hai baciato piangendo? Sì, mi sono messa a piangere. È chiaro. Sì, mi ha chiesto se volevo sposare, gli ho detto ovviamente di sì perché... E quanto tempo dopo vi siete sposati? 6 mesi. Ma con tutta la cerimonia, genitori, parenti, sì, la musica, cerimonia... lancio dei confetti, bacio, bacio, bacio, viva la sposa. No, una via di mezzo è stata, nel senso che ci siamo sposati, abbiamo fatto una cerimonia civile, però abbastanza, cioè l'abbiamo curata, ci piaceva che ci fosse la partecipazione, abbiamo fatto leggere delle poesie a degli amici, abbiamo scelto le musiche. Tutto perfetto. Il viaggio di nozze, sì. Viaggio di nozze, sì. Siamo andati in California, abbiamo fatto un on the road in California in cui ci siamo divertiti da matti, ci siamo ubriacati come dei... Tornati, come è cominciato il figlio, il secondo figlio? No, il figlio abbiamo aspettato più di un anno. L'avete programmato, naturalmente? Sì, abbiamo... Avevate l'algoritmo per trovare il giorno perfetto in cui nascesse? No, qualche mese per poi portare a termine la missione, diciamo. Non è stata una cosa così, detto fatto. Io penso che negli anni 2000, ecco, si possano programmare un po' queste cose. Certo, tutti lo fanno, chiaro. Beh, non tutti, capita. Tanti dicono, è successo, non me l'aspettavo, aiuto. Mentono a loro stessi. Un po' di responsabilità in questo volevo. Come hai avuto una maternità responsabile, una seconda maternità responsabile? Sì, scelte. Perfetta, nessuno può dirti nulla. Cioè non sei credente, ma un prete andrebbe in brodo di giuggiole, figurati. Due, chissà. Un rapporto matrimoniale finalizzato alla procreazione, programmato, perfetto, non c'è di meglio. Andrà in paradiso. Ma ce l'hai un difetto? Sono umorale, sono irascibile, permalosa. Ma tu non l'hai mai vista le persone umorali? Cioè, sarai leggermente alterata quando qualcuno ti contraddice e invece che sorridere abbozzi un mezzo sorriso. Questo è il massimo della tua reazione. Adesso io sono incinta e sono in uno stato zen oggi. Beh, grazie. Cioè, ho degli ormoni in circolo che mi fanno vedere. A me mi avevano spiegato al corso preparto che la depressione postpartum non è tanto per le difficoltà. Quindi fai corso preparto e postparto anche. Sì. Beh, certo, deve essere. L'ho fatta adesso col secondo. Hai fatto un master in seconda gravidanza. È che io quando mi appassiono alle cose me le studio, mi metto a studiare. Mi diceva l'ostetrica che non è che la depressione postpartum viene perché è difficile, perché il neonato non dorme, ma perché tu sei drogata per 9 mesi di questi ormoni che ti fanno sentire su una nuvola. Bisogno. E poi nel momento in cui partorisci, in cui il bambino esce, gli ormoni, pum, finiscono. Staccano. Quindi va in crisi d'astinenza. Vabbè, arrivano altri ormoni dopo, dai. Ma gli altri ormoni sono tremendi, sono delle cose che ti fanno piangere all'improvviso, che ti creano un sacco di scompensi. Non è nessun vizio, quindi. Cioè, ti fai soltanto di ormoni di bambini, basta. Cioè, l'unica droga a cui si è lasciata andare. Questa è una bella droga. Vabbè, i vizi sono sani. Vabbè, sono costa cose che cara, fanno guarda, bene. Alla fine ti costa più della cocaina. Se devi fare un figlio all'anno per tenerti l'ormone in circolo, veramente ti conviene darti le droghe pesanti. I vizi sono cose sane, comunque, sono cose che fanno star bene. Sì, ma dimmi tu che un vizio che hai coltivato, hai avuto una vita perfetta, una donna inattaccabile, un vero modello. Ma sei disordinata? Sì, quello tantissimo. Sì, infatti vedo, guarda, hai posato la borsetta nel sedile accanto che non è perfettamente perpendicolare alla spalliera del sedile. Correggila di un 25 gradi. Apri i miei armadi e ti casca addosso qualsiasi cosa. Ma sì, ma figurati, mi cadrà addosso dei fiori di campo messi lì o delle violette o qualcosa provenzale che sta lì a profumare. Ciao, buon viaggio e buon figlio. Grazie. Non posso che contrapporre alla perfezione l'assoluta abiezione, perché così recupererò quello che è l'equilibrio cosmico. Alla donna perfetta io oppongo una delle mie storie maledette, una delle storie delle persone che mi scrissero per una rubrica della Posta del Cuore, per raccontarmi l'irraccontabile, per dirmi l'indicibile, l'incredibile, ciò che nessuno mai ebbe il coraggio di credere avvenuto realmente, ma giuro su ciò che ho di più sacro, che è tutta sacrosanta verità. Maura Fischiotta era nata e vissuta a Ponte Mammolo, a nord-est della periferia di Roma. Allevò con cura e dedizione quel suo fratello albino e meschino che tutti chiamavano Paolone. La madre giocasta, sfiancata tenutaria di un banco al mercato, le delegò senza mai dirglielo quel compito grave. Sapeva che l'avrebbe sostituita egregiamente nell'allevamento del frutto tardivo del suo sopravvalutato climaterio. Quando Paolone ebbe 20 anni, Maura Fischiotta andava per i 45. Non si era mai mossa da casa, immersa full time nel servaggio domestico. Considerata un presidio sanitario, rimestava tra padelle, cateteri in quella famiglia grondante di anziani allettati e adulti precocemente deteriorati. Finché Paolone una sera portò a casa l'amico Renatino a vedere il derby, perché lui non aveva Sky Sport. Era tanto più giovane di me, ma ci piacemmo subito. Quando beveva la birra mi guardava e sembrava che sorridesse. Quella sera la magica aveva vinto e mi convinse a uscire per festeggiare. Non si sa come e perché, ma Paolone restò a casa. Maura Fischiotta si trovò con Renatino in una matrimoniale d'hotel poco distante dalla stazione Termini. Mi aveva confessato che era impotente e mi aveva fatto pena. In realtà avevo un fagiolino veramente microscopico. Ma mi sono data da fare come ho potuto per ore e ore. E alla fine era tutto contento. Fu tanto contento che il microfallico Renatino, che solo 2 ore dopo fu tagliato in due dal lotto di cui aveva attraversato le rotaie con il suo Gilera GP 800 nel momento sbagliato. Nessuno tolse a Maura Fischiotta il pensiero fisso che fosse proprio lei la causa di quello spezzatino. Pensai che fosse morto perché l'avevo traumatizzato, lui piangeva e diceva di essere un uomo fasullo. Ma io volevo solo rassicurarlo che le dimensioni non erano un problema. Anche se quando mi vidi davanti quel caperino, un po' mi ero messa in pensiero e quasi quasi volevo scappar via, ma poi ci ho messo tanto amore. Pensai anche che forse ero malata, una mezza maniaca, che so. Fu Paolone fratello, per lei quasi figlio, a toglierla dall'ambascia, anche se quella sera Maura Fischiotta restò pensierosa con il latte al limone in mano che continuava a colare nel lavello. Erano a cena e il discorso cadde su Renatino. Dissero che lui lasciava la vedova e 2 figli. Ma allora perché mi aveva mentito dicendomi che era impotente? Fu Paolone fratello, per lei quasi figlio, a toglierla dall'ambascia, anche se quella sera Maura Fischiotta restò pensierosa con il latte al limone in mano che continuava a colare nel lavello. You got high off my devotion. We caught as your crutch. Like some sick love potion. Carried your way. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Forse non lo farò mai più, giuro, perché sto trasgredendo a una delle regole fondamentali che mi ero imposto da quando ho cominciato a viaggiare in treno, che mi sarei affidato alla deriva di ciò che accadeva senza scegliere itinerari, senza scegliere persone, senza scegliere luoghi. E invece non posso resistere. Sono lì che lo vado ad aspettare, come un drogato aspetta il suo pusher nell'incrocio del vicolo malfamato. È il viaggiatore onnipresente, in ogni luogo, in ogni situazione, in ogni personaggio storico, che so che prende quel treno in Ligure. E io faccio peripezie di ogni dove potermi spostare velocemente per incrociare nel momento preciso in cui so che prende quel treno, da quella stazione a quell'ora, il nostro viaggiatore. Perché? Non lo so. Mi sembra di incontrare uno di quei personaggi che hanno costellato di fantasia immaginifica la mia fanciullezza. È il numero uno del gruppo TNT di Alan Ford. Era un vecchietto con una lunga barba che camminava sulla sedia a rotelle, che aveva ricordi che risalivano dal tempo degli antichi egizi. Aveva conosciuto ogni dove, ogni luogo, ogni abiezione, ogni perfezione, non si sa come, non si sa perché. Beh, il numero uno lo incontro io in quel trenino che arranca faticosamente lungo le strade della Liguria. Quanto tempo ci ha dedicato al Brasile, della sua vita avventurosa? Guardi, c'ho ancora a casa, vicino a Rio. Prima abitavo a Avenida Niemeyer a Leblon, poi ho lasciato perché avevo dietro una favela di 2 milioni di persone, avevo un furto ogni 2 ore, non ogni giorno. Sono andato a Búzios, dove è una località che si è chiamata la Portofino brasiliana, dove tutti gli ebrei argentini che sono scappati dalle dal momento che l'Inghilterra aveva fatto la guerra alle Falls e per altri problemi economici hanno fondato questo villaggio dove si va a cavallo, dove c'è una natura splendida a 300 km da Rio. Mi sono comprato una piccola casettina che all'epoca costava pochi, perché io ho vissuto, la prima volta che sono andato in Brasile nel 69, ma sono andato così per cazzeggiare, dottore. Poi sono ritornato nel 74 e niente, in questo mio girare in Brasile ho conosciuto tanta gente, la persona più simpatica e intelligente che mi ha dedicato mi ha fatto un autografo su un libro era Jorge Amado, che era sempre un bar a Ipanema dove io andavo, perché all'epoca arrivava lì il Corriere della Sera e li compravo il giornale italiano. Cioè lei frequentava Jorge Amado a Ipanema? Sì, pensi che all'epoca in Brasile esistevano i falegnami che facevano le casse da morto per strada, ma soprattutto c'era una tristezza perché c'era la mortalità infantile all'epoca. Quindi per strada questi costruivano casse da morto? Sì, mentre lei stava seduta. Per i bambini erano bianche e c'era una dedica, c'era una frase di Jorge Amado che c'era scritto: cercate di morire né ricchi né sani. Questo è lo spirito brasiliano. E sono arrivato in quei giorni che iniziava il carnevale, che è una cosa, c'è tanti carnevali a Rio, sa? Sì. C'è la parte più bella del Brasile è il nord-est, dove c'è Bahia, Itaparica, tutti quei posti lì. Però il carnevale c'è il carnevale degli omosessuali, c'è il carnevale delle lesbiche, c'è il carnevale per strada, e c'è una prigione portoghese che si chiama San Corrado. Quando finisce il carnevale, dopo 15 giorni, al 12° suono dalla campana a mezzogiorno, liberano tutti quelli, perché c'è di tutto, delitti, stupri, vendette private. E pensi che all'epoca che c'ero io avevano proibito gli aquiloni. E perché? E coi piccioni, perché i narcotrafficanti dalle favele mandavano la droga direttamente. Ah, con l'aquilone? Con l'aquilone, pensi lei. E poi un giorno, la sera, girovagavo per Rio e c'era uno che vendeva accendini, mi dice: Brick Coca 50 Cruzeiro. Ma sei pazzo per un accendino 50 Cruzeiro? Sai cosa avevano fatto? Tipo Napoli, perché per me il Brasile è un'immensa Napoli, ogni città, San Paolo, Rio, Itaparica, Santos. Forse Napoli è una piccola parte del Brasile. Sì, è una porta proprio. E lei apriva sotto l'accendino e c'era la dose da inalarsi di cocaina direttamente. Ah, venivano gli accendini, diciamo, farciti. Sì, cioè, non poteva lasciare un accendino sul tavolo perché non lo trovava più. Ma lei di cosa viveva quando stava lì in Brasile? Io quando sono andato lì vivevo di turismo, perché appunto avendo a Búzios mi affittavo questa casa qui ai turisti, a chi veniva, e poi le ho detto, facevo i miei giri per vedere sempre certe cose, e quello che mi è successo io quando tornavo a Genova, certe cose che le arriva i narcotrafficanti che ho conosciuto. Ah beh, si stava nel giro e allora sì, vabbè, ma lì è normale, sa. Chi ha una Jeep nera e un Rolex o uno dei Martighe al polso vestito di bianco e un Panama in testa di soli occhiali scuri e di quel giro lì. Ma quello, diciamo, si travestiva da narcotrafficante? No, c'hanno un cliché proprio, un cliché, è presente come il nostro mafioso, no? Sì. O il nostro sardo con la coppola, hanno un identikit loro. Soprattutto ci tengono a apparire anelli vistosi, cravatte con diamanti, cose. Pensi che a Rio de Janeiro, come tanti altri posti turistici, ma Rio per eccellenza, day night le donne con 30 gradi all'ombra vanno con la pelliccia perché c'è l'aria condizionata. No? Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Ma lei ha conosciuto qualcuno di persona di questi boss? Sì, perché lei è direttore da fagiolo. Veniva a Genova, io compravo magliette per il pallone, cose, le portavo ai ragazzini che giocavano, facevano le partitelle lì sulla spiaggia. E le seguissi figuri, poi le offrivo il polo, la Coca-Cola. Mi ero fatto un clown di questi ragazzini che non finiva più. E un giorno proprio seduto al Caneto 70, che era il locale di Garrincha, se lo ricorda quel famoso giocatore della nazionale brasiliana che era un fenomeno, una lapidina. Io no, però qualcuno lo ricorderà, io non mi interessa. Con la poliomielite, regalavo queste magliette e mi viene due, mi dicono che c'è un signore che mi vuole parlare. Trovo sto qui che è Escobar, era addirittura. Mi dice: cosa fa lei a questi ragazzini, che intenzione ha di farli prostituire, degli organi, di vendere? E io cado dalle nuvole, sapeva tutto di me, ma guardi, io ho visto delle cose più che in Brasile o in Sud America, l'ho vista in India e in Indonesia. Poi se li vendono, non è che prendono la gente e gli spiantano. Non è che se li vendono, spariscono la gente, capisce, non si sa niente. E quando il boss l'ha chiamata, poi cosa voleva? Il boss, il narcotrafficante? Mi ha detto, le ho mandato un biglietto da visita, che per 2 o 3 mesi non ho pagato nemmeno un drink più a Rio de Janeiro, perché ero diventato l'amico di questo qui, perché lì non so com'è la notizia, se l'è sparsa. E niente, non ci ho più portato niente, questi ragazzini l'ho persi, perché addirittura, lo sa che nelle banche brasiliane c'è un cilindro? E c'è dentro uno col mitra, perché vado a fare le rapide in 45, capisci? Un cilindro blindato da dentro può sparare? Se poi sparano all'altezza d'uovo. E questo è Rio, per dire Rio, non Rio del turista, ecco. E poi ci sono mille cose, poi ad esempio una cosa che mi ha colpito molto quando sono stato nell'interno del Brasile, dove c'è le fazende, c'è altre cose, sono soprattutto quelli che ingaggiano per come spaventapasseri umani, no? Ma come funziona? Funziona che vanno da una fazenda all'altra mentre seminano, perché gli uccelli non mangiano le semenze, tutto naturalmente. E li mettono su un palo e questi si devono agitare come uno spaventapasseri? No, a piedi, vanno a centinaia ballando la samba in mezzo a sti campi e poi passa sopra gli aerei che buttano roba chimica, tutto. Infatti c'è gente che... Quindi respirano l'antiparassitario e ballano la samba per allontanare gli uccelli. Sì, vanno 2 o 3 chilometri avanti, 2 o 3 indietro, tutta la giornata per $2. Spaventapasseri umani? Umani, c'è pieno, di bambini soprattutto. Alla fine muoiono avvelenati quando lo fanno dopo una stagione. Sì, bambini, il brasiliano fa lavorare le donne, e i bambini. Il brasiliano è come il messicano, lo trova al bar. I maschi stanno al bar, donne e bambini. E cerveza e ciascherie dove mangiano anche la fagiolata. Bevono birra e mangiano fagioli. Sì, ma... È un cocktail esplosivo. C'è tanti tipi di brasiliano. Il brasiliano passa da quello che è la sodage, il sentimento meraviglioso, incantata, non so, all'uomo di strada e basta. Poi non c'è nessun rispetto per la donna, no. A parte che la donna sudamericana è già caliente per se stessa, ma sono... Io conoscevo quella che inaugurava il carnevale di Rio, la Maraviglia, e poi era travestita, che è stata anche sul palco col Presidente della Repubblica quando ha fatto il sambotropo. Però era un uomo quello, sotto era un uomo. Senti, io mi sto però rischio di perdermi la mia stazione per starla ad ascoltare. Tanto ormai la trovo. Speriamo di incontrarla. Ma no, speriamo, la vengo a cercare, chi la molla più ormai? Ormai conosco i suoi percorsi. Sarò peggio del narcotrafficante. Alla prossima. Va bene, grazie, arrivederci. Olha aí, um mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, Meu coração indo contra a razão, sentimento. Não se desfez, recaí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. Il treno va. Ed ecco venuto il momento dell'audiolettera. Faccio una premessa. Qualche ascoltatore saputello mi scrive pensando aver scoperto chissà quale immane complotto. Dice: Gianluca, come mai le persone che ti scrivono usano il tuo stesso lessico, parlano esattamente come te? Lanciando l'orrenda insinuazione che io le lettere me le scriva da solo. Oddio, sarebbe una cosa noiosissima e anche faticosissima. Le lettere ci arrivano veramente, noi le facciamo leggere naturalmente a uno speaker, perché diamo uniformità comunque a tutte le lettere e diamo maggior senso a una cosa scritta piuttosto che fosse raccontata dalla viva voce. Tutte le testimonianze delle persone che incontro nel treno sono raccontate da viva voce. La lettera no. La lettera vogliamo in qualche maniera spersonalizzarla dalla voce del protagonista, anche perché molte volte le persone non hanno piacere di far sentire al mondo intero che hanno una pena amorosa. È chiaro che però la lettera molte volte non risponde a dei canoni di chiarezza, di sintesi, di velocità che la permetterebbero la sua fruibilità alla radio. È chiaro che ogni tanto mettiamo qualche virgola e aggiustiamo qualche frase. Poi c'è un secondo fattore. Io ho un modo di parlare balzano, eterodosso, immaginifico, lo so, è la maniera di parlare da quando sono nato. Perché? Perché così si parlava a casa mia. Noi siamo il frutto dei discorsi che si facevano a tavola durante la nostra fanciullezza. A casa mia parlavano così e io parlo così. È una maniera molto personale di parlare, di attingere a un vocabolario molte volte immaginario, costruito da me, prendendo a martellate il lessico, le parole e aggiustandomi i pensieri. Io ho donato al mondo l'espressione intima d'azione per descrivere l'atto sessuale. E beh, il mondo adesso dice intima d'azione, ma lo sono inventato io. È chiaro che le persone che mi ascoltano da tanti anni alla radio, molte volte quando mi scrivono e quando mi parlano, anche telefonando, hanno questo vezzo di cercare di imitare in qualche maniera il mio modo di parlare. È come quelli che quando vedono un napoletano improvvisano e provano a parlare dialetto napoletano. Orribile. Ecco, è orribile, però che devo fare? È così. Caro Gianluca, seguo sempre il treno va e ogni volta che la puntata arriva all'ultimo quarto d'ora, gongolo, chiedendomi tra me e me, chissà questa volta chi è la poveretta che si fa massacrare sottoponendole il suo caso. E mi viene da ridere. Quindi, in tutta sincerità, per nulla al mondo ti racconterei delle mie vicende amorose. Non sono così spavalda e sicura di me al punto da rimanere indenne dopo uno dei tuoi impietosi giudizi senza appello che così spesso ti ho sentito pronunciare in questa rubrica. Fatta questa premessa necessaria, la storia che ti voglio raccontare è quella di un matrimonio piuttosto insolito. Questa ascoltatrice mette subito le mani avanti, denotando una sua sottile lussuria masochistica. Vorrebbe essere da me massacrata, ma io, figuratevi, le donne non le toccherei nemmeno con un fiore. E quindi non capisco perché dice: ah, adesso mi aspetto che farai di me anche questa cosa. E sotto sotto sembra quasi che mi dica: sì, fallo, trattami male. Naturalmente non può lei rivelare questa sua sottile e lubrica inclinazione di essere da me massacrata, quindi fa come quelli che vanno dal dottore e raccontano: dottore, c'ho un problema, un amico mio improvvisamente gli è cascato il pisello, cosa può fare? Il dottore dice: mi faccia vedere dov'è il suo problema, capisce subito. O quelli che hanno sempre la storia di un amico quando in realtà è la loro storia. Beh, questa signorina, facciamo finta che sia vero, mi porta la testimonianza di un'amica che ha un problema legato al matrimonio. Voi direte: cominci subito alla fine, sei già sposata, che gusto c'è? E no, aspettate, il matrimonio non è il suo. Non si tratta del mio matrimonio, ma a quello a cui sono stata invitata da parte di una mia amica che farà da testimone alla sposa. E lei sarà una testimone un po' particolare, visto che la mia amica ha accettato di recitare una parte. In che consiste la parte? Nel fatto che dovrà fingere di non sapere che i due sposi, pur conoscendosi, non sono in realtà compagni né amanti. Lei ha conosciuto la sposa ad un corso di ballo circa un anno fa. È una ragazza brasiliana molto bella, da un po' di tempo in Italia. Hanno fatto un po' amicizia, chiacchierando al corso, e qualche volta sono andati a bersi un aperitivo. Questa ragazza, solo dopo qualche tempo, le ha parlato di un uomo, un italiano, con cui aveva una storia. Con un dettaglio non secondario: lui era già sposato. Ma ma lei non dubitava affatto dell'amore che quest'uomo coniugato nutrisse per lei, rafforzato dai regali, i monili e tutte le attenzioni che lei considerava come prova di grande passione da parte di lui. Ci siamo. È uno schema piuttosto conosciuto, piuttosto consueto, di una ragazza che viene da paesi lontani, che ridà vigoria e anche rigidità a un uomo italiano che probabilmente aveva dimenticato di essere capace di sollevare in una donna amore, passione, desiderio. Sono molto brave queste ragazze perché riescono a rimettere in piedi un'antica arte perduta, che è quella di illudere gli uomini, che siano dei grandi uomini, dei grandi amatori. Alcune donne hanno questa facoltà e riescono a far palpitare gli uomini dando loro delle grandi illusioni. Questa signorina evidentemente aveva un piano ben preciso, ha colto un uomo sposato, non gli interessa lei di avere uno status civile, gli interessa di avere una bella casa, di avere dei bei soldi, dei bei regali, un buon potere d'acquisto, gli interessa giustamente di fare finalmente la signora e quindi ha trovato un pollo da spennare. Sì, ma lei non ha la nazionalità italiana, come si fa a diventare italiane? E beh, chiaramente a tutto c'è una soluzione. Poi, dopo alcuni mesi, la ragazza brasiliana chiama la sua amica e le annuncia le nozze, chiedendole di farle da testimone. La mia amica sobbalza e le dice: ma non era già sposato? La ragazza brasiliana si affretta a ribatterle che no, forse si era spiegata male, che intendeva dire il suo amante aveva una relazione, sì, ma che poi successivamente era finita. Solo dopo ripetute insistenze da parte della mia amica e solo dopo averle detto che avrebbe rifiutato di farle da testimone se non avesse saputo la verità, la ragazza brasiliana si è decisa a vuotare il sacco. Il suo amante è in effetti sposato, non può separarsi e lei ha il problema del permesso di soggiorno. Per prendere la cittadinanza italiana, allora i due amanti hanno architettato un finto matrimonio. Lei sposerà un amico del suo amante, un amico che ha accettato di sposarla per soldi. Fatto il matrimonio, i due si separeranno dopo pochi mesi. Così la ragazza brasiliana avrà nel frattempo ottenuto la cittadinanza italiana e potrà continuare a fare l'amante del ricco uomo sposato. Un bel piano, no? Ora io non penso di essere una moralista e non sono nemmeno sposata, ma almeno una considerazione la voglio fare. Questo uomo sposato che ha ideato un piano così articolato e rischioso non si rende conto che sarà ricattabile a vita da questa ragazza? Non faceva prima a separarsi da sua moglie? E poi, sarà pur vero che il matrimonio ha perso ogni significato, ogni sacralità e che l'amore non può durare una vita intera, ma se deve ridursi ad un mero contratto di comodo, non è meglio abolirlo direttamente? Cara amica, io non la metterei su un piano di etica o di morale. Quest'uomo in fondo è stato indotto e costretto nel fare questo passo. Un passo che lo porterà alla distruzione totale. Perché adesso immaginate quale arma abbia in mano questa signorina. Da un certo punto di vista lei cosa potrebbe fare a questo punto? Potrebbe sposarsi l'amico e mettere nei guai anche l'amico, e quindi sgrassarne due al prezzo di uno. Voi direte: ma il primo poi la lascia. Ma che la lascia? Ormai è così fortemente compromesso. Lei sicuramente ha tutte le prove che lui sia stato complice di questo immenso matrimonio fatto semplicemente per dare uno status alla sua amica, di modo che come cittadina italiana possa tenerla come tenevano i signorotti ottocenteschi la loro sartina nella garçonnière, se la spupazzavano, riempivano di pizzi, di merletti, di gioielli, la portavano a teatro sempre in un palchetto antistante a quello in cui davano con la legittima consorte, insomma erano le mantenute. Beh, come allora le mantenute, oggi questa nuova generazione di mantenute, perché queste sono, hanno però strumenti molto più raffinati. Questo signore parente ingabbiato è distrutto, sarà ricattato a vita per questa ragione, che non potrà abbandonare di un attimo il vitalizio che pasta questa signora, ma lei avrà una seconda vittima, quello che se l'è sposata, e lui se l'è sposata. Ragazzi, se questa poi chiede gli alimenti anche a lui, questa ne avrà due. A questo punto giocherà su due tavoli. Vai domani a dire davanti a un magistrato che l'ha fatto perché gli aveva chiesto un amico, gli aveva dato sottobanco dei soldi per sposarsi questa. Se l'è sposata, e se questa lo lascerà, dovrà continuare a mantenerla per tutta la vita. Cavoli loro, ottimo lavoro, perfetto lavoro. Spero soltanto che tu non sia la moglie in questa storia che mi hai raccontato. We fuss, we fight, then we kiss goodnight. Then I see your face when I close my eyes. When I look at you, I can't stand the sight. I swear.